Effetto Mondo. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Buongiorno. Buongiorno. Beh, iniziamo subito così a leggeri. Mi dicevi che c'è un giornale, non so quale, che si occupa proprio di che cosa? La frustrazione delle donne per il troppo calcio negli ambienti di lavoro. Sì, il Times, insieme a argomenti serissimi come la giornata di ieri ad Auschwitz in particolare e il proseguire della telenovela Brexit, ha in prima pagina questo studio condotto tra i top manager di molte aziende britanniche che hanno notato che tutte le donne, female staff, cioè tutti i dipendenti donna, sono veramente alienate da dover sentire, cioè, specie non ne possono più di sentire di questo sport talk, che poi anche in Gran Bretagna vuol dire soccer talk, cioè si parla di calcio più che di sport. In particolare poi loro hanno partite più anche ancora più di noi sparse nelle giornate feriali, e quindi gli uomini la prima cosa che fanno al mattino è parlare di calcio, e quella cosa da un po' così, da appunto è diventa alienante. Si dovrebbe fare un esperimento, diciamo, abbassare l'agenda del relax base di calcio dei maschi e alzare quella delle donne, non so cosa ne verrebbe fuori. Ma io ti dirò che a me affascina di questo tema vedere come soprattutto parlare di calcio più ancora che di altri sport azzera completamente le differenze tra magari anche è un grande momento di pacificazione. A me insomma, a volte ve lo invidio un po', ecco. Va bene, andiamo invece ad altri argomenti, come per esempio i giornali americani sul tema dell'impeachment ancora. Sì, c'è ancora questa questione Bolton, abbiamo detto il libro, il presidente Trump ha detto, ieri gliel'hanno chiesto, io questo libro non l'ho letto, e comunque è stato bellissimo. No, non l'ho letto il libro, ma comunque non è vero. Beh, comunque ricordiamo di cosa stiamo parlando di Bolton, che è un ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, quindi, ascoltatissimo. Cioè, uno contro Trump. Esatto, che chiamato da Trump, definito un falco per semplificare, cioè uno che ha sempre pensato che la politica estera americana dovesse essere o totalmente isolazionista, o nel caso si intervenga si deve intervenire in modo deciso. E in questo libro lui conferma che sull'Ucraina il quid pro quo c'è stato, cioè Trump ha vincolato gli aiuti economici decisi peraltro dal Congresso, con l'approvazione del Congresso, all'apertura da parte del nuovo presidente ucraino Zelensky di un'inchiesta su Biden Senior e Biden Junior. Ora uno potrà dire che Bolton è in cerca di celebrità, quello che ti va, però comunque fatto sta che per uno nella sua posizione è una dichiarazione interessante. Verrà sentito? Come dicevamo ieri, il voto in Senato sulla possibilità di ascoltarlo come testimone in questo momento potrebbe essere un po' meno certo, ma io sono abbastanza sicura che diranno no ad ascoltarlo come testimone, ma vedremo, magari sarò smentita. Però sui giornali americani c'è anche molto spazio, da una parte al coronavirus, e tra l'altro con un'interessante intervista sul New York Times a un'epidemiologa che dice rispetto alla SARS 2002-2003 abbiamo oggi degli strumenti di coordinamento tra istituti di diversi paesi che in realtà ci aiuteranno davvero, ci stanno già aiutando a contenere l'epidemia. Quindi ottimista, che a proposito soprattutto dei messaggi degli ascoltatori, insomma, mi sembra un tema interessante come la tecnologia medica e anche l'aumento di cooperazione tra paesi, effettivamente al di là della maggiore trasparenza che viene dalla Cina, potrebbe aiutare. Però i giornali americani si occupano anche di questo annuncio che dovrebbe fare oggi Trump alle 12 di Washington, quindi le 6 del pomeriggio qui da noi, questo long awaited plan, questo piano per la pace tra Israele e Palestina, che appunto è da tanto che si aspetta. Lo stesso presidente Trump, sempre ieri dopo l'incontro con Netanyahu, ha detto io l'ho pronto da un sacco di mesi, ma con questo tono, con questo fare, voi israeliani avete fatto 3-2 elezioni anticipate, non so ancora se parlare con te, Benjamin, ce l'aveva a fianco, adesso lo sentiamo, o con Gantz, che dovrebbe essere ricevuto oggi. Cioè, Trump non se ne capacitava. Ma che sistema è? Sentiamo un attimo Netanyahu, vai. E look forward to making history with you tomorrow. Sentite che proprio Netanyahu dice: io non vedo l'ora di fare la storia con te domani. Ma e senza poi, i palestinesi, non ho capito perché, guarda, come la fanno la storia? Infatti i giornali, tra l'altro Haaretz per esempio, il quotidiano che è abbastanza critico con Netanyahu, certo che un piano di pace sarebbe stupendo, Gantz incontrerà Trump oggi, però dà conto anche del fatto che si dice che il leader della Palestina abbia rifiutato di parlare al telefono con Trump, che voleva anticipare dargli alcune di questi, di questi della parte di questo piano che presenterà. Quindi vedremo come verrà presentato. Netanyahu ha detto che mai Israele ha trovato un alleato tanto forte come in Trump. Giornali inglesi, Giulia? Giornali britannici, tre temi sostanzialmente. Da una parte questa dichiarazione di ieri dell'FBI, il titolo praticamente di Metro addirittura titola Zero Help, perché questo ha detto un funzionario dell'FBI, quindi nessun aiuto dal Duca Andrea di York sull'inchiesta su Epstein. È stato più volte chiesto naturalmente ai suoi avvocati, non direttamente a lui, di almeno testimoniare personalmente sui suoi rapporti con Epstein, finanziere, suicida in carcere, anche se c'è chi dice che è stato suicidato, ma in ogni caso quella è un'altra storia. Ha accusato di molestie sessuali e anche di violenza sessuale, e quindi anche il Daily Mail titola: ma perché Andrew non parla con l'FBI? E questo è davvero su tutti i quotidiani, con toni diversi. Poi c'è la giornata della memoria, anche perché era presente Kate Middleton, la moglie invece del principe, probabilmente, insomma, che dopo se il padre mai arriverà al trono, poi ci sarà lui. E il Daily Mail titola: ecco come si comporta un vero membro della famiglia reale, cioè Kate Middleton, naturalmente in riferimento. Mica come quell'altra. Esatto. E poi c'è la questione Huawei, perché Boris Johnson deve... Qual è la questione? Spieghiamo. E questo è, per esempio, è sul Guardian in particolare. Boris Johnson deve decidere se coinvolgere Huawei, la grande azienda cinese, nella costruzione, nella gestione del network 5G, se lo fa scontenta... ed è un eufemismo l'amico Trump. Se non lo fa, naturalmente lo sviluppo sarà molto più lento di questa rete 5G, vista la potenza e tra l'altro già la grande presenza di Huawei nel Regno Unito. Sarebbe interessante, perché per ora Johnson e Trump sono sempre, diciamo, stati molto appaiati, allineati su tante questioni. Forse questa è la prima volta che si annuncia un disallineamento. Francia, Le Monde, La Croix hanno in prima pagina le nostre elezioni regionali, in particolare Le Monde, con un po' di Schadenfreude, che è la parola tedesca per dire essere contenti quando qualcun altro non se la passa. Qual bene è la parola? Schadenfreude, che vuol dire essere contenti dei guai altrui. La foto è di Salvini che si alza dopo la conferenza stampa in cui... Quindi, in prima pagina su Le Monde di Salvini in Emilia. Sì, dice: Salvini ha la prima sconfitta in Emilia Romagna, e con tanto di foto. Mentre la Croix ce l'ha come spalla, l'apertura principale è sulla difficoltà che si avrà comunque ad abbandonare completamente le fonti fossili per l'energia, quindi soprattutto il carbone, e però l'editoriale è una sconfitta per Salvini. Le Figaro invece ha in prima pagina una foto di Edouard Philippe, il primo ministro francese, che ieri era ad Auschwitz. Sappiamo che qui in Italia invece eravamo impegnati in altre cose. Ad Auschwitz dall'Italia non c'era nessuno di così alto livello. Il presidente Sergio Mattarella però settimana scorsa era a Gerusalemme allo Yad Vashem. E poi ci sono ancora gli aggiornamenti sulle riforme, e poi c'è una foto di Luca De Meo, il nuovo amministratore delegato del gruppo Renault, che deve rilanciare il costruttore francese. Un italiano, quando succede il contrario, tutti a gridare all'invasione. In questo caso è un italiano che guida Renault. Interessante. Sì. Non so se abbiamo pochissimi secondi. C'era la voce di questo sopravvissuto ad Auschwitz che semplicemente ha lanciato questo grido che viene ripreso da tutti i giornali tedeschi: ma dove eravate? Dove era il mondo? Possiamo sentirlo anche domani questo. Sì, perché ma no? Certo, perché ma no? Certo. No? Grazie Giulia Grivelli, è tutto per la puntata di oggi. Noi ci risentiamo naturalmente domani con Effetto Giorno. Da Alessio Maurizio l'auguro di una buona giornata con Jacopo De Franchi in redazione, Andrea Roccabella in regia.